Scuola in controluce. Stiamo lavorando da alcune settimane per fare in modo che assolutamente dalla prossima scadenza elettorale del 2001 non si voti più nelle aule scolastiche. Sono parole dell'allora ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer. Ritrovate preparando questa puntata di Scuola in controluce. Sono davvero fantastiche le promesse dei nostri politici, sempre così convinti, sempre così sicuri. Invece dovrebbero imparare ad essere un po' più prudenti, tanto da evitare qualche brutta figura. Infatti sono passati oltre 12 anni da quelle dichiarazioni di Berlinguer e ora il 24-25 febbraio, come sapete, andremo a votare, lo faremo tanto per cambiare nelle scuole. E siamo pure fortunati perché l'anno in cui parlava Berlinguer ci fu un ponte di ben 12 giorni perché le vacanze forzate per il voto andarono ad aggiungersi a quelle già programmate per la Pasqua. Invece quest'anno parliamo di 2-3 giorni, è andata quindi tutto sommato pure abbastanza bene. Bambini comunque di nuovo a casa, didattica bloccata per qualche giorno, genitori lavoratori in seria difficoltà. E quindi il dubbio che mi pongo e che vi pongo è questo: ma davvero non è possibile andare a votare altrove, in caserme, uffici postali, quantomeno prevedere una rotazione fra le scuole, perché anche questo potrebbe essere un modo per non gravare sempre sulle stesse scuole, visto che peraltro in Italia si va al voto anche abbastanza spesso. Allora stamattina ne parliamo con due nostri protagonisti della puntata di Scuola in Controluce. Cominciamo con Giovanni Del Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti voi dirigente, ascoltatori. Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cadorna di Milano, a due passi dalla radio peraltro, un giorno ci viene a trovare in studio. Volentieri. Allora, quanti giorni chiudono le sue scuole e quante scuole? Purtroppo sono tre istituti con ordini che vanno dalla scuola materna alla scuola media inferiore e chiudono chiaramente dal giorno del venerdì precedente alla votazione, il 22, fino a tutto il 27 mercoledì, perché avendo ricevuto una circolare anche del prefetto non possiamo rischiare che vengano a montare le gabine quando i ragazzini sono in classe. Certo, il problema è che molte scuole hanno le sedi di seggio in refettori o in laboratori e quindi possono operare degli spostamenti dei ragazzi. Noi abbiamo tutte le aule impegnate in sede di seggio, quindi non è proprio possibile. E sembra proprio un paradosso, no? Che si voti sì. Nella sua scuola, perché lei è un artefice. Ho inventato uno... la scuola aperta. Ha inventato la scuola aperta. Siamo aperti a Natale, ma dobbiamo chiudere per le votazioni. La sua è una delle poche scuole, devo dire... che la sua scuola sta facendo scuola, come dire, no? In tutta Italia, perché lei ha voluto, devo dire giustamente, ma insomma la mia opinione, ha voluto tenere aperte le scuole anche quando ci sono le normali vacanze scolastiche, perché insomma queste famiglie sono in difficoltà. Assolutamente, come lei ha ben detto rispetto alla indicazione di Berlinguer di 11 anni fa e passa, quello che mi colpisce è che anche adesso in campagna elettorale, sentendo parlare i nostri protagonisti politici, la scuola non è che se ne parli granché e queste promesse sono cadute proprio nel nulla. Sono metà delle scuole di Milano impegnate in queste cose da anni. Sono 400. Poi quest'anno c'è anche il concorso, quindi alcune scuole devono appunto chiudere pure per il concorso, sì, per ospitare. Insomma, quando non si sa dove mettere qualcosa si fa a scuola, no? Sì, certo. E poi soprattutto quando non si sa dove tagliare si taglia la spesa scolastica a livello governativo. Quindi vorrei porre l'attenzione su questo problema. Perché così, cosa propone Del Bene? Quale sarebbe per lei la formula? Prima di tutto la rotazione sarebbe fondamentale, poi la rotazione tra gli istituti per quanto riguarda la sede di seggio. Il problema è che sono stati decisi nelle gabine, diciamo i seggi elettorali nelle scuole da anni e non vengono più modificati. Non so dal punto di vista logistico questo cosa comporta per i comuni o per gli enti locali. Tuttavia, in una frase, la sua richiesta a quello che sarà il nuovo ministro della pubblica istruzione, perché ormai Profumo ci sta salutando. Certamente tenere in considerazione il fatto che le scuole sono un luogo dove si fa integrazione e cultura, e certamente portarle via alla popolazione come servizio, soprattutto nelle grandi città, per i seggi elettorali è certamente un problema. Trovare altri spazi, se possibile, a rotazione o comunque altri spazi che non siano le scuole. Del Bene, le do una notizia, a lei come tutti i nostri ascoltatori, in realtà si può fare questa cosa, non è poi così impossibile, perché c'è certo. il sindaco sindaco, noi abbiamo trovato un sindaco, è vero che è di un piccolo paese, ma insomma un sindaco che si è messo lì, ci ha pensato, ha detto no, io le scuole non le voglio chiudere per far andare tutti a votare. E stiamo parlando di Mauro Pinzani, che è sindaco di Rufina, un paese nella provincia di Firenze. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, lei dove fa andare a votare i suoi cittadini di Rufina? Noi abbiamo ridistribuito i nostri seggi elettorali, due in due ex scuole, nelle frazioni principali, poi abbiamo utilizzato la biblioteca comunale, un edificio che è un centro infanzia adolescenza e una piccola porzione della nostra scuola media, ma che non interferisce con le attività della scuola media e rimarrà aperta. E quindi ha evitato la chiusura di quante scuole? Di cinque scuole. Quindi cinque scuole resteranno aperte, ha trovato dei luoghi alternativi. Allora, ovviamente c'è da dire che Rufina è un paese dove votano, se leggo bene, 7.430 persone, quindi chiaramente forse, chi lo sa, è più facile fare questa cosa, applicarla in un piccolo centro rispetto ad un grande centro, però insomma, quantomeno lei ci ha provato e c'è pure riuscito e poi ci sarà pure un risparmio. Sì, noi innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è venuta al mio collaboratore, il mio assessore, che insieme all'ufficio anagrafico si è messo a lavorare dallo scorso anno, ci è voluto un anno per poter ovviare a questo problema. Per dare come mai ha voluto dare la priorità a questo problema? Perché noi siamo un piccolo comune, abbiamo un operaio, un solo operaio comunale, e tutte le operazioni di sgombero dei locali, igienizzazione, di sistemazione, installazione del fax per le comunicazioni, del telefono, dovevano essere fatte da ditte esterne. Quindi noi spendevamo, per ogni tornata elettorale, noi spendiamo circa 20, forse qualcosina di più, 1.000 euro. Questi euro ovviamente quest'anno saranno risparmiati. Ha capito, quindi insomma non è lei ha pensato più al risparmio rispetto comunque al così ad aiutare le famiglie che poi avrebbero dovuto tenere i figli a scuola, però comunque non è mica una cosa, voglio dire, non è una cosa brutta, non sto dicendo che ha fatto male. No, certo, devo dire che naturalmente queste operazioni non si fanno da soli, noi abbiamo avuto la collaborazione della prefettura tramite la sottocommissione elettorale, ci sono stati fatti dei sopralluoghi insieme alle forze dell'ordine, quindi insomma tutti insieme abbiamo elaborato una strategia e un piano per ovviare a questo problema. Tenga presente che la prima spinta, la prima riflessione è stata proprio sollecitata dai genitori, Che sono venuti da lei, hanno detto ma basta chiudere queste scuole, che sono venuti da noi e ci hanno detto basta, perché 5-6 giorni in piena attività lavorativa costituiscono un bel problema, poi naturalmente a calare tutto il resto. Ecco, è interessante quello che diceva prima, che la prefettura si è detta d'accordo, naturalmente ha fatto i suoi controlli eccetera, perché a questo punto vuol dire che non c'è un come dire un'indicazione a priori, no? Quindi se il sindaco trova dei posti, si impegna per trovare dei posti, la prefettura valuta eccetera e può anche dare l'ok, non è pregiudiziale la sua posizione. Assolutamente, anzi devo dire preliminare a tutto il progetto sono i sopralluoghi e diciamo la verifica da parte dell'autorità competente, in questo caso di un esponente della prefettura insieme con il nostro ufficio, della corrispondenza di quelle che sono le caratteristiche di ogni seggio elettorale, certo. Dal punto di vista della sicurezza, della tranquillità, della serenità, al fine di permettere comunque il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del bene, glieli facciamo i complimenti a Pinzani? Assolutamente sì, ma considerando una grande città come Milano si può fare se le persone implicate nel processo si mettono a tavolino, ci impiegano magari un anno, ma si può fare, insomma, questa è la dimostrazione che è possibile. Di edifici dismessi ce ne sono a Milano, insomma, quindi di... Ma qui è una questione proprio di volontà, di volersi mettere in moto e decidere, perché è chiaro che lasciare lo status quo è sempre molto più comodo, no? Assolutamente non sì. Nulla. Assolutamente non sì. Nulla. Però dobbiamo pensare ai bambini e alle famiglie. Grazie, grazie al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cadorna di Milano Giovanni Del Bene, grazie anche al sindaco di Rufina, in provincia di Firenze, Mauro Pinzani, che ha avuto questa bella idea che non chiuderà ben 5 scuole per il voto, quindi in 5 scuole i ragazzini, i bambini continueranno ad andare a scuola anche 24-25 febbraio, beati loro. Vi ricordo che Scuola in Controluce, potete riascoltare questa puntata come tutte le altre che ci hanno preceduto andando sul sito radio24.it, poi scaricandovi sul podcast la trasmissione, questa puntata come tutte le altre, la pagina Facebook Scuola in Controluce. Ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 13.30. Scuola in Controluce.